poi mi dicono che parlo troppo. Ma un concetto non è mai abietto, merita più di una menzione, mille parole di pura astrazione. Quale mestiere potevo fare? Sì, lo ammetto, adoro parlare. Ed argomento sempre e comunque, è così bello non venire mai al dunque. E ora ci sono i network sociali, mi concedono spazi abissali. Elezioni in Iran, la crisi in Afghanistan, le stragi in Turkmenistan ed il lavoro che manca a Milano. Se ne frega del contenuto, oggi che tutto è rivalutato, ma chi se ne frega del contesto, Dio come sono immodesto. Pagan per fare l'addetto stampa, il mio ego lesto divampa, tanto da dire, poco da fare, e quest'estate me ne vado al mare. Ora ho trovato la giusta via, scrivo per altri e così sia. Ora ho trovato la giusta via, scrivo per altri e così sia. No woman, no cry.